Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Buon termine di serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog Guardie o Ladri, dove nei mesi scorsi ho affrontato più volte, e l'ho fatto anche sulle pagine romane del Sole 24 Ore, il tema della criminalità organizzata in provincia di Latina. E sapete che lo abbiamo affrontato anche qui in radio. Ma ora la situazione comincia ad essere veramente insostenibile. Basti leggere la cronaca, le cronache locali dei giornali del posto e un giorno sì e l'altro pure si assiste a cronache che raccontano di attentati intimidatori agli imprenditori, ai commercianti, continue vessazioni, proiettili in busta chiusa, proiettili sparati contro le saracinesche, magazzini incendiati. Insomma, è una situazione veramente intollerabile. Noi di Radio 24, con questa trasmissione in particolar modo, la stiamo denunciando da mesi. Oggi proprio, giorno in cui vi parlo, nelle pagine romane, mi spiace soltanto a Roma e nel Lazio, ahimè, troverete la mia ennesima inchiesta sulla mafia in provincia di Latina, o meglio sulle mafie. Domani avremo la testimonianza di due imprenditori. Oggi invece ne parliamo con chi rappresenta l'anima del commercio, vale a dire il presidente di Confcommercio Latina, Vincenzo Zottola. Buongiorno Zottola. Buongiorno. E con Edoardo Levantini, che rappresenta il comitato antimafia Anzio Nettuno. Buongiorno Levantini. Buongiorno. Che è già stato nostro ospite nelle settimane e nei mesi scorsi. Zottola, io partirei da lei con una domanda secca. C'è ancora chi continua a chiudere gli occhi rispetto ad una situazione che ormai io dico intollerabile oggettivamente, al di là dei 9 faldoni che il prefetto di Latina, Bruno Frattasia, presentato al ministro dell'interno Roberto Maroni con l'ipotesi di scioglimento del comune di Fondi. La situazione ormai è intollerabile. Come si è arrivati a tanto e qual è il suo giudizio, Zottola? Ma io credo che la situazione vada sicuramente messa sotto controllo, perché ormai in provincia di Latina e in particolare nella parte sud avvengono troppo spessi eventi e avvenimenti di cui lei parlava prima, cioè di avvisi malavitosi verso commercianti, verso aziende industriali, aziende di servizi. Quindi la situazione è realmente preoccupante. Credo che gli occhi non li stia chiudendo nessuno, perché perlomeno il lavoro delle forze dell'ordine è encomiabile, lo vedo, anche l'attenzione che il prefetto mostra verso fenomeni di questo genere. Però sicuramente c'è bisogno di moltissima attenzione e noi come associazione di categoria siamo vigili e siamo a fianco ai nostri imprenditori. Ecco, adesso ci arriviamo a questo, però io faccio un passo indietro, perché ovviamente nessuno mette in dubbio la capacità e la caparbia di forze dell'ordine, inquirenti e magistratura. Quando io mi riferivo alla occhi chiusi, io mi riferivo soprattutto alla politica. Leggo le cronache locali io come le legge lei, leggo i siti di alcuni comuni io come li legge lei, e ancora siamo nella situazione in cui si legge a chiare lettere in questi siti dei comuni o nelle dichiarazioni dei politici: in provincia di Latina la mafia non esiste. Allora, qual è il ruolo della politica? Chiudere gli occhi o denunciare? Ma io credo che il ruolo della politica sia quello di porre maggiore attenzione soprattutto a questi fenomeni, e credo che si stia dando invece molto più valore a quello che potrebbe essere l'impressione che fa sulla stampa fatti di questo genere. Quindi vanno denunziati nelle sedi giuste e assolutamente non va escluso quello che è un fenomeno ormai dilagante e invasivo nella nostra provincia, essendo noi contigui ad altre province ben note. Assolutamente, basti pensare alla parte alta della Campania, alla provincia di Caserta e alla provincia di Napoli, che non sono poi molto lontani da Latina. Zottola, lei diceva delle iniziative di Confcommercio. Beh, ce ne parli. Beh, noi abbiamo fatto delle iniziative già un anno e mezzo fa, quando vedevamo che questo fenomeno non andava assolutamente sottovalutato e stava uscendo al di fuori di quelli che erano, diciamo, i fatti normali di una provincia. E quindi noi come associazione di Latina abbiamo fatto un'assemblea in cui abbiamo fatto ordine al nostro interno, abbiamo redatto un manifesto di legalità che è un vademecum per tutti i nostri dirigenti, mandando questo documento al prefetto proprio per il suo impegno che si stava adoperando nella nostra provincia. Assolutamente. Dopodiché abbiamo avuto esempi di intimidatori verso alcuni nostri dirigenti, precisamente qualcuno a Fondi e qualcuno anche in altre città, e lì abbiamo convocato un nostro direttivo straordinario facendo venire il rappresentante nazionale della sicurezza di Confcommercio, il dottor Sgueri, e quindi dando massima attenzione a questo fenomeno proprio perché non venisse sottovalutato assolutamente quello che poteva essere dei colpi di pistola contro una vetrina, dei magazzini incendiati. Lei è mai stato vittima di atti intimidatori o comunque anche di richieste di pagamento di tangenti, di pizzo o quant'altro? No, assolutamente no, no. Personalmente assolutamente, credo che i nostri dirigenti sappiano avere il senso civico della denuncia e soprattutto anche della denuncia pubblica, non solo quella verso le forze dell'ordine, proprio per tenere alta quella che è l'attenzione su fenomeni che possono iniziare così in sordina, diventare divaganti e poi diventare un costume. Credo che sia molto, potrebbe essere molto vicino il momento. Benissimo, allora cambiamo registro. Andiamo da Edoardo Levantini, che rappresenta una fetta, chiaramente, non tutta, ma una fetta che si impegna nel suo comitato antimafia di Anzi e Nettuno, rappresenta appunto l'impegno della società civile. Levantini, senza minimamente entrare, anche perché siamo in par condicio, nei temi di campagna elettorale e nei temi di questi candidati, cosa di cui non mi interessa assolutamente nulla, ma qual è la situazione vista dal suo comitato antimafia? Guardi, la situazione è grave. Io però vorrei dire una cosa approfittando della presenza del Presidente della Commercio. Prego. L'8 luglio inizia al Tribunale di Latina un processo contro alcuni soggetti di Aprilia e di Nettuno accusati di associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni, che hanno colpito, hanno chiesto anche il pizzo a un esercizio commerciale legato alla catena dei discount Todis. Sarebbe una bella occasione perché la Confcommercio, ma anche le altre associazioni dei commercianti, si costituiscano parte civile. Benissimo, allora facciamo subito una domanda. Zottola, serve costituirsi parte civile? Ma non abbiamo assolutamente nulla in contrario, valuteremo immediatamente il caso e se sarà necessario noi proporremo ai nostri organi immediatamente di costituirci ogni qualvolta si verificano fatti di questo genere, di attacchi malavitosi contro le imprese del nostro settore. Ecco, questo è un bel gesto, perché costituirsi parte civile è un gesto di rappresentanza ma soprattutto di coraggio e dà un segno per il futuro. Bene, mi piace questa interlocuzione tra la società civile e il mondo dell'impresa. Levantini, continui pure. Io guardi, le dico, noi dobbiamo rappresentare la presenza delle istituzioni a fianco della magistratura, delle forze dell'ordine e di coloro che denunciano. Gli episodi di estorsione nel territorio della regione Lazio sono degli episodi che riguardano anche comunità vicino alla capitale. Mi riferisco al caso di Pomezia della fine degli anni 90. Sono dei fatti che iniziano dalla fine degli anni 80, soprattutto purtroppo nel Basso Lazio, per la vicinanza con il Casertano. Sarebbe bene che oltre all'associazione di commercianti, oltre alla Regione Lazio che lo ha fatto, perché la Regione Lazio è costituita parte civile in 3 processi contro le mafie nella nostra regione, contro i casalesi a Latina, contro l'Andrangheta presso il Tribunale di Vellese, a 2 importanti processi, e anche il Comune di Nettuno. Però le altre amministrazioni locali su questo non ci vogliono sentire, nonostante da anni queste organizzazioni criminali operino e compiano anche estorsioni ai danni di commercianti e di imprenditori. Assolutamente. Vorrei tornare un secondo da Zottola per chiedere, ma la situazione più delicata a suo giudizio nel Basso Pontino qual è veramente? Fondi, come si legge sui giornali, ma ripeto c'è tanto di relazione da parte del prefetto di Latina, oppure ci sono realtà che cominciano purtroppo a crescere in delinquenza, criminalità organizzata, come ad esempio Minturno e zone limitrofe? Diciamo che noi eravamo abituati a sentire qualche esempio nella zona, diciamo così, contigua proprio al Garigliano, quindi zona Minturno, Castelforte, come diceva lei. Invece ci siamo dovuti ricredere perché gli ultimi atti, perlomeno gli ultimi 6-7 atti di cronaca, sono avvenuti quasi tutti a Fondi. questo senza non voler criminalizzare nessuna città, però sono successi a Fondi. Quindi. Esattamente, ricordiamo che Fondi è una città fondamentale per il nostro paese, perché c'è un mercato ortofrutticolo che è tra i più grandi d'Europa, 1 miliardo di fatturato all'anno. Quindi cerchiamo di capire cosa può essere l'appetito che vi è mangiando appunto da parte delle cosche nei confronti di queste realtà economiche. Io ringrazio per i loro interventi il presidente di Confcommercio Latina Vincenzo Zottola e il presidente del comitato antimafia Anzo Nettuno Edoardo Levantini, e Roberto Galullo vi dà appuntamento sul giornale Sole di oggi, nelle cronache romane, con un approfondimento e un'inchiesta, e domani con la voce di due imprenditori della provincia di Latina, sempre qui su Radio 24, sempre su Una Busa al Giorno. Ringrazio regia Filippo Oreggi, in studio Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.